primo pegno della sincera fede che per te vanto offrir mira il tuo piede. Ah, lui è gran Pompeo, attirando crudel, uomo del letto avrai di trionfar nel mio dolore. Decidere se ver che all'opre tui della gloria l'amor solo te muova, stendi la destra alla consorte ai figli te tradito Pompeo. Vendetta! Oh, vi tradisti il tuo benefattor! Hai tolto a Roma un errore! Ditolo mio se l'amistà ti spiace, altro pretesto cerca che sia miglior. Torno alla reggia, qui vi t'aspetterò. Pensa che forse l'Egitto fia quel solo che alle vittorie tue trattenga il volo. Armi cimentar. piace, un oltraggio all'onor mio, un oltraggio all'onor mio. Son guerriero, e posso anch'io, e con la... Son guerriero e posso anch'io e con l'armi cimentar. Son guerriero e posso anch'io e con l'armi l'onor del sepolcro per la gloria.